Io leggo nella mente, ho un mare di pensieri nella testa, come un morto a galla in mezzo a una tempesta. Io leggo nella mente, almeno nella mia, le chiedo di venire a salvarmi e spesso la butto via. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso, siamo talmente tante ombre diverse che formano l'arcobaleno. Nella mente ho un mare di pensieri nella fronte, come un morto a galla in mezzo alle onde, e vivo nei ricordi, almeno quelli miei. Li ho maledetti più di una volta e quelli persi li rivorrei. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso, siamo talmente tante ombre diverse che formano l'arcobaleno. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso, abbiamo tutti quanti forme diverse, i pezzi di un unico vento. A volte vedo i trucchi dei maghi, coriandoli e colombe, oh. A volte sento solo un grande silenzio all'orizzonte. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso, siamo talmente tante ombre diverse che formano un arcobaleno.